Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Mi dispiace, ma io so io. E voi non siete un cazzo. A questo punto la notizia è ufficiale, la frittata è fatta. Allegramente col consenso generale la frittata è fatta. Tra guastatori e giudici d'assalto, tra sceneggiate e giudici d'ascolto. Praticamente la frittata è fatta. Vai, sap. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 361, contrari 7. La Camera approva. Tra concorrenti, ballerine e mostri, autorità e consigli per gli acquisti. Praticamente la frittata è fatta. Non è un andare avanti, ma è il peggior conservatorismo e antipolitica che ci possa essere. Non vogliamo sporcarci le mani con questo obbrobrio e lo lasciamo votare solo a voi. Semplicemente come se non fosse niente, la frittata è fatta. Dopo 2 anni di lavoro, una maggioranza molto ampia ha detto sì alle riforme costituzionali in Parlamento e dopo 30 anni soprattutto di tentativi falliti. E ricchi premi ai partecipanti, allegramente la frittata è fatta. Vai, Sam. La riforma costituzionale segna un passaggio storico per l'Italia. L'Italia era il paese meno stabile d'Europa. Oggi è il paese più stabile d'Europa, questo aiuta anche tutti noi. Quando andiamo all'estero aiuta le nostre aziende e aiuta la credibilità del sistema paese. E allora, signori, sono le 6:31 minuti. Vabbè, mi scrivono, è ufficiale, è un Milan di Brocchi. Questa l'ho detta io 6 mesi fa. Nel senso, dicevo, mi raccomando, ci sono anche cose importanti dal punto di vista della comunicazione, fate in modo di non farci dire è un Milan di Brocchi. Mi raccomando, almeno questo dal punto di vista della comunicazione, risparmiatecelo. È fatta. Va bene, quindi cari ascoltatori, alle 6:31 minuti c'è chi forse ironicamente mi scrive anche abolite le province se passerà il referendum che approva questa legge di riforma costituzionale. Beh sì, a ottobre se passa il referendum sono state abolite di fatto le province dalla Costituzione. Siamo così alle 6:32 minuti nel giorno in cui alla Camera approvano in via definitiva dunque questa riforma costituzionale, quella che decurta anche il Senato. Al Senato si parla di zombie che camminano, questo raccontano i giornali. È anche il giorno però che è iniziato ieri con la scomparsa di Gianroberto Casaleggio, uno dei due fondatori insieme a Beppe Grillo del Movimento 5 Stelle. E quindi oggi sulle prime pagine dei giornali ci si divide un po' tra le due notizie, quella politica, eminentemente politica, vale a dire l'approvazione della riforma, e quella di questa scomparsa che chiaramente ridisegnerà anche un po', no, il futuro del movimento. Questo è inevitabile, tutti a chiedersi ora che succederà, visto che il padre Gianroberto Casaleggio non c'è più, Grillo aveva detto insomma faccio un passo di lato, che succede ora? Insomma, in tutto e per tutto, come ci ha detto ieri Mario Adinolfi, una cosa è certa, potete già segnarvelo sull'agenda, si va a votare nel 2017, tra un anno, un anno prima, questo non ve lo diranno fino all'ultimo, ma voi non prendete già appuntamenti a febbraio 2017, si va a votare. Quindi si va a votare adesso alle amministrative per chi vota, si va a votare a ottobre per il referendum, si va a votare chi vuole anche al referendum domenica. Si va a votare le amministrative, si vota per il referendum confermativo a ottobre e si vota alle politiche del febbraio 2017. Diciamo che in Italia è un po' così, è un po' così. Sono le 6:33, è tornato Lorenzo Nespoli. è tornato dalle ferie. Com'è andata oggi la sveglia? Devastato, mi ha detto, primo giorno, così. Peter Bescapelli in regia. E c'è la nostra Paola. Ma buongiorno. Eccolo qua. Non avevo riconosciuto Lorenzo. No, voce. Una settimana di vacanza l'aveva cambiato. Ma in meglio o in peggio? Ma no, l'aveva modificato, non diremo mai se è meglio o in peggio. Buongiorno esatto. A tutti, buongiorno Alino. Se si va a votare, si vota così tante volte, vuol dire che siamo in democrazia. Sì, siamo in democrazia. Cioè, l'unica cosa per cui non si è votato è per avere il presidente del Consiglio. Però la prossima volta si farà adesso, si vuole proprio tutto. Ma no, ma non questo. Insomma, si sa come sia nata tutta, tutta la questione, quindi. No, per carità, non facciamo la storia dell'ultima legislatura. Eccoci qua, Paola, no, Saluzzi. Adesso ti inguai da sola, anche perché. Andiamo avanti. Sicura? Avanti, questo è. Ma guarda, ieri è stata giornata ovviamente su cui è chiaro che la notizia della scomparsa di Casaleggio abbia segnato tantissimo del resto del giorno, per capire. Comprendere che cosa sarà, oltre al fatto umano, insomma, prima ancora del futuro del movimento, eccetera, scompare così una persona, e quindi innanzitutto si ragiona su quello, e poi sicuramente oggi è un appuntamento ad un prossimo referendum. Sì, ma diciamo che la riforma costituzionale, l'ultimo passaggio alla Camera era talmente scontato sui numeri, poi l'opposizione era anche uscita, cioè non ci potevano essere sorprese. Ora tutti vedremo sul referendum che succede. Referendum al quale, lo sapete, Matteo Renzi lega proprio il suo destino politico in maniera definitiva. Allora intanto voglio salutare anche il nostro super mega dir, Luca Dini. Buongiorno. Eccolo qua. Buongiorno Luca. Allora... Eccolo là, oggi ti abbiamo messo la Salemi. Allora, queste sono le due notizie. Intanto apriamo il Parlamento, non il Senato che adesso tra un po' chiude. No, non è che chiude, se mai ci vediamo più tardi. Però più o meno. Allora, qui ovviamente bisogna un po' anche guardare un po' al domani su quello che riguarda il Movimento 5 Stelle, perché è inevitabile anche nel dolore, nel momento di difficoltà, però i giornali oggi già sono pieni di notizie a dire ma che succederà ora al Movimento, no? E si racconta, ad esempio il Corriere della Sera dice che entro giugno si sceglierà il leader nel senso non come negli altri partiti, sappiamo, è un movimento, uno vale uno, eccetera, però il candidato premier, tutti guardano a Luigi Di Maio, no, Luca Dini, ti sembra la persona che potrebbe in qualche modo rappresentare, diciamo così, il movimento più degli altri, ora che... Difficile dire rappresentare più degli altri, però mi sembra che sia una naturale evoluzione di un movimento che stava già andando verso, diciamo, la definizione di alcune personalità chiave. Lui sicuramente è quello che negli ultimi mesi è venuto fuori di più, mi sembra anche naturale come anche a me, perché pensare che, voglio dire, che si potrà mantenere un movimento da uno vale uno per sempre, cioè senza figure di spicco, cosa no, poi soprattutto figure così non sono molto onestamente sostituibili perché sono troppo speciali, cioè voglio dire, la figura di Casaleggio e la figura di Grillo, quello che è stato all'inizio, sono stati, come dire, gli incubatori, e non, secondo me non si può, cioè adesso c'è un'evoluzione diversa, comunque anche una maturità diversa, ormai è un movimento che ha una storia piccola. No, è chiaro. Ovviamente frasi e spizze apprese a spizzichi e bocconi. Qualcuno racconta Repubblica pare aver sentito Beppe Grillo, che ha annullato la tournée a Napoli, è tornato subito a Milano, dire o vinciamo le prossime politiche oppure conviene lasciare stare tutto. Qualcun altro dice che insomma appunto il Corriere della Sera sceglieranno il leader entro giugno, per carità, si vedrà, questo è il momento, domani ci saranno i funerali di Casaleggio, quindi fino a questo momento sono ancora, no Paola, delle dichiarazioni così, no, però... io credo che tutte le dichiarazioni fatte ora ma naturalmente soffrono del difetto, che difetto non è, quindi metto la parola tra virgolette, dell'emotività, anche non dico del non sapere, ma è naturale, logico non avere o se volete non dichiarare, non fare in termini pubblici delle previsioni che potrebbero essere lette e rilette in altra maniera. Sì. Sicuramente quello che il direttore diceva è così, insomma, Di Maio forse è la persona più adatta e anche cresciuta di più all'interno dello stesso movimento per rappresentarlo. Quindi da qui al se vinciamo, se non vinciamo, insomma, questo è il futuro, questo è quello che accadrà poi. C'è la figura del figlio di Casaleggio, che comunque potrebbe o potrà continuare quello che il padre ha fatto. Non so a questo punto quanto Grillo si possa definitivamente staccare. No, è infatti un'altra cosa molto interessante. Tema, e un'altra cosa molto interessante, pare sempre frase così carpita un po' Beppe Grillo in un viaggio Napoli-Milano anche con qualche passeggero, e che ha detto: ora per tutto quello che ha fatto Casaleggio non posso tirarmi indietro, non so come dire, il famoso passo di lato evocato, forse a questo punto Grillo non potrà più farlo, ecco, o no? Vedremo, è l'unica, ma non è per dare una risposta vaga, Alessandro, vedremo, perché l'unica cosa da vedere ora è il prosieguo. Innanzitutto ci sono le elezioni comunali in città, e chiaramente la partita più grande, più forte si gioca su Roma, sì. e poi sarà, insomma, andando avanti si vedrà che cosa succederà. Sicuramente Grillo adesso è l'altro polo e l'altro capotavola rimasto, quindi anche nei confronti credo dello stesso figlio di Casaleggio dovrà fare qualcosa, come ogni padre, insomma, dato compiti, ma compiti importanti. Sì, certo, mi è venuto in mente alcune frasi di recente dette da Beppe Grillo a un paio di convegni proprio riferite a Di Maio, no? Che fecero anche qualche polemica. Sentite, qui le abbiamo rispolverate. Grillo a Di Maio. C'è qualcuno che può obiettare su qualcosa su Di Maio? Di Maio è l'emblema della politica perfetta, onesta, per bene. Questo Di Maio, e poi ancora il maledetto sei il leader. Vorrei fare un applauso a questi tre, a queste tre persone che sono straordinarie. Maledetto, ma allora ci sono le domande. Maledetto sei un leader. Insomma, non so se nella modalità della Beppe Grillo sia una sorta di investitura oppure no. Comunque staremo a vedere, caro Luca. Qui allora questa riforma, ma io è certo che questa non l'ho capita, la questione di legare effettivamente il destino del referendum a se stesso, alla propria, è un po'. Mi sembra un po' quella di Renzi una cosa un po' furbina, cioè dire votate me o votate contro di me. In realtà, insomma, si vota se piacerà o no una riforma, no? Una riforma costituzionale che tutti saremo costretti a vedere, a studiare e poi decidere. Non so, Luca, ti piace questa personalizzazione? Guarda, ti dico una cosa, che secondo me è sempre stato così, nel senso che da quando c'è Renzi nessuno ha votato. Quasi nessuno, devo dire, ha votato nel merito di qualcosa. Tutti hanno votato sempre con lui o contro di lui. Ma è una roba proprio italiana. Cioè... È un copione, voglio dire. Qualunque cosa ci fosse stata scritta in questa riforma, chi è uscito per non votare sarebbe uscito per non votare. Cioè, però è una cosa tipicamente italiana, forse anche con Berlusconi era sempre, le leggi erano, si diceva si vota pro o contro Berlusconi, o poi se c'era la sinistra, pro o contro il leader di sinistra di turno, ma perché? Credo sia una cosa, chiedo scusa. Mi sembra... No, è anche con Berlusconi, però insomma, però poi questa cosa qua che è stata fatta, Berlusconi non era riuscito a farla, quelli prima di lui. Però mi sembra proprio una visione un po' infantile del popolo italiano, cioè invece di di entrare nel merito delle cose, di votare. Beh, a... I plebisciti, sì, sì o scusate, no alle persone. Dici, è così, cioè, ora come ora, se andiamo a vedere ciò che altrove anche accade, io credo che le persone guarderanno prima di tutto al contenuto del referendum. Poi, probabilmente, dicendo questo, è stato anticipato un pensiero generale. Perché poi è così, cioè, forse c'è più forza nella dichiarazione e nel dire tanto si vota su di me o contro di me, perché tanto così sarà. Così sarà. Si vota. Forse è più giusto predichiarare quello che poi effettivamente verrà detto. Ah, sarà un referendum pro o contro la persona. Poi italiana o meno, non so, io penso che valga un po' dappertutto. Sì, sì. Alessandro, cioè, anche adesso è completamente diversa la storia, ma chi deciderà sulla Brexit lo fa anche e soprattutto in nome del, indipendentemente dai fatti accaduti, di chi in questo momento guida il paese. Ah, dici che i Panama Papers di Cameron. Ma, diciamo, insomma, comunque quelli pesano, ma in ogni caso sarebbe su chi in quel momento guida, in quel momento è giudicato. Sì. Mannaggia, non sul merito, vabbè, per carità, questo un po' lo posso capire, perché è sempre un giudizio su chi ti governa, però effettivamente al di là di chi ti governa uno dovrebbe giudicare una riforma, piace, non piace, questo è un po' il senso. È come un po' la questione del referendum di domenica sul petrolio, eccetera, sembra sempre poi diventato un referendum su chi sta al governo o chi non sta al governo, ma alla gente interessa sapere che cosa questo referendum contenga. Prima di tutto studiare che cosa comprende. Esatto. E poi decidere. Cioè in maniera... Capito veramente, poi uno decide. E invece sembra, se vai a votare il referendum, stai con chi, diciamo, i no triv, se invece non vai è perché Renzi dice di non andare, cioè è così. Comunque, tra l'altro ne parleremo alle 8:40 oggi del referendum, avremo Michele Emiliano, che invece sostiene questo referendum, presidente della Regione Puglia. Ma noi dobbiamo andare al traffico, poi tante altre cose da dire tra poco con Paolo Saluzzi e Luca Dini, state qui. Ciao Milano, un po' che non ci sentiamo, niente, volevo fare una controproposta per le prime elezioni. Al posto di fare il referendum sulle prime elezioni, perché non lo facciamo sui vitalizi, pensioni d'oro, stipendi d'oro dei parlamentari? Facciamo un bel referendum, vediamo se la gente gli vuol dare questi benefici a questi politici. Dai, prova a buttarlo in alto, dai, proviamo così, vediamo. Siamo tornati indietro di 50 anni a tornare a parlare di aborto e basta. Votare è come pulirsi il culo con un coriandolo. Scusate, ma Verdini è la maggioranza o l'opposizione? Milan, non si parla di Milan quest'oggi, come mai? Cos'è successo? Non lo so cosa è successo. Tu, Luca Dini, vuoi dirmi qualcosa da interista? No, ti volevo dire che anche noi cambiamo mister. Sì. Prendiamo un turco, si chiama Mezze di nome. Mezze. Devi chiedere. E di cognome? Appunto, di cognome? Calzette, però in turco comincia con la S. No, vabbè, dai. Esatto, noi da Brocchi. State facendo un gioco sui cognomi che sembrate i bambini dell'asilo, siete meravigliosi. No, ma infatti è un Milan di Brocchi, possiamo dire. Ma dai, su. Ma no, ma non si può dire, adesso lo puoi dire. Milan di Brocchi. Ho capito, poi... ma che vuol dire? Questa è discriminazione... No, infatti, dai, però effettivamente ci sono cose che non devi fare neanche per... Vabbè, comunque Christian Brocchi è nato e cresciuto calcisticamente nella Pro Sesto, va bene? Allora ecco, questa è l'unica... e allora diciamolo, ha giocato nella Pro Sesto, lo vedevo sgambettare lì al centro del centrocampo con la sua forza fisica. Bravo Christian Brocchi, mi piaci, sicuramente farai bene dalla Pro Sesto in cima al mondo. Allora, com'è che era quello che diceva di votare? Come... Era molto... Con il coriandolo. Vabbè, lasciamo stare. No, io voglio fare un passo indietro rispetto a ieri, perché ieri ci ha fatto un po' arrabbiare, ha suscitato un dibattito. Marione Di Nolfi, lo conoscete bene. Ma va, lo conoscete l'abbiamo bene. L'abbiamo sentito, eri collegato. Insomma, Marione Di Nolfi che... ha questa, porta avanti questa battaglia, insomma, anche contro l'aborto. Dice: fossi io in potere, abolirei la legge 194, quella che consente di abortire. E ha detto anche che vorrebbe il 100% di medici in Italia obiettori. Sentiva. C'è il diritto per un medico di fare obiezioni di coscienza. Sì. E che sono un po' troppi, secondo il Consiglio d'Europa. E io sono vorrei un po' che troppi. Il 100% dei medici che fanno un giuramento, che si chiama giuramento di Ippocrate, in cui giurano di non somministrare mai medicamenti che costringano, che causino la morte, ora... Mi piacerebbe che il 100% dei medici fossero obiettori di coscienza. Il 100%, caro Lucadini. Poi vai a capire come far valere il diritto di una donna sancito dalla legge di poter abortire in condizioni ma come... Ma bizzarro, perché questa cosa succede solo in Italia. Sembra che la coscienza sia un bene particolarmente... caro da noi e non in altri paesi, e soprattutto non nelle strutture private, vorrei aggiungere, non nelle strutture, c'è molta meno presenza. Sì, ma non lo so, io vabbè, Adinolfi porta avanti questa battaglia, ci crede, però guarda, le due cose, cioè è molto più degno dire cioè, meglio una legge che abolisca l'aborto che lui la farebbe, lui permette, che voglio dire, se cioè, io sono contrario, però se si votasse una legge contrario all'aborto sarebbe un processo decisionale. Invece avere una legge che consente legittimamente l'interruzione di gravidanza con un sistema che lo rende impossibile è minimo ipotetica. Sì, è un pochino, come dire, è un pochino talebano come ma sistema. Ma non è talebano, è ipocrita, perché poi sappiamo i veri motivi. Cioè, ci sono, per carità, alcuni sacrosanti veri obiettori e moltissimi obiettori di convenienza, lo sanno tutti. Sì. Devo dire che sì, effettivamente posso capire, cioè non la condivido, ma posso capire la battaglia, dire vado al potere e se sono al potere abolisco la legge, come in Polonia, riuscire a farla votare. Sì, certo, come in Polonia voglio rendere illegale l'aborto. Però Paola, tu già provato, devo dire. Che ci dici, Paoletta, su questo? No, mi metto in scia a quello che sta dicendo Lucadini, cioè se una legge esiste, una legge deve poter essere, anzi dover essere applicata, diverso dal poter. Poi sulla vicenda la questione è una pagina di dolore e su questo non ci sono dubbi, e forse anche nel parlare e discutere non si approfondisce abbastanza questo elemento. Se una legge esiste, una legge deve poter trovare applicazione, punto. Su questo poi non c'è dubbio. Sul desiderio personale politico espresso da Adinolfi non entro in considerazione. Ma tanto ha detto che perderà 40 kg per mettersi un po' in forma per cercare di diventare sindaco di Roma. No, è vera queste cose. Va bene, ma noi abbiamo, ti proponiamo, cara Paoletta, un bel manzetto in prima pagina di Vanity Fair. Un manzetto che è Claudio Santamaria, mica male, ma piace. Come un tigro, ma un come tigro, mai? Sì, ma, sì, certo, tigro, ma come mai piace così alle donne? Cosa c'è di bello in Claudio Santamaria? Dici un po', Paola. A me lo chiedete? Sì, è un bell'uomo, no? Il fascino, ma di che cosa? Dello sguardo, la barba, l'uomo vissuto, questi... Un po' danneggiato, danneggiato. Lo sguardo così, Claudio Santamaria. Vabbè, tu invece alle 15 di che ti occupi, ovviamente? Politica, il dopo oggi, Casaleggio. Riforme. E quello che sarà. Il destino del Movimento 5 Stelle. Volevo portarti i saluti di un tuo ascoltatore. Sì. E il vice direttore della sala stampa del Vaticano, Greg Burke. Accidenti, ragazzi, mi metto, metto subito la cravatta. C'hai anche una cravatta, Peter? Te la presto subito, vai al volo. Che miseria, oh, track, grazie. Te la lancio, peraltro adorabile. Se mi ascolta è adorabile per principio, quindi... Assolutamente, stava a San Dire. Ovvio, va bene. Intanto salutamelo quando lo incroci, e alle 15, ricordiamo, Paola Saluzzi su Sky, e invece trovate Claudio Santamaria e non solo, ovviamente, nel nuovo numero di Vanity Fair. Vi mando un abbraccio, alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci qui cari italiani, cari ascoltatori, cari amici tutti del mondo, stranieri. Ben arrivati alle 7:19 minuti, siamo pronti a leggere i giornali. Oggi avremo ospite Michele Emiliano che è presidente della Regione Puglia, dunque parleremo un po' di questo referendum di domenica. Avremo ospite anche Antonio Padellaro del Fatto Quotidiano, parleremo di una delle notizie più importanti oggi sui quotidiani, cioè la scomparsa di Gian Roberto Casaleggio. E allora dai, tuffiamoci in questa lettura. Siamo qui in questo mercoledì 13 aprile, i titoli intanto. Il Sole 24 Ore apre con un'intervista al ministro dell'economia Padoan, misure decisive per il rilancio delle banche, questo è il titolo di prima pagina. Mentre le due notizie principali per i giornali sono l'approvazione definitiva della riforma costituzionale, e infatti il Corriere della Sera apre sia la nuova Costituzione, Repubblica, Dio Senato, ecco la nuova Costituzione, così il Giorno cambia la Costituzione, per il Messaggero la nuova Costituzione legge, Avvenire, ultimo sia le riforme, ora tocca agli italiani, L'Unità, appuntamento a ottobre, quando ci sarà il referendum confermativo, anche il Secolo XIX, riforme la parola all'Italia. Certo però che la notizia che molti mettono con uguale risalto, se non altro nella foto, in prima pagina è la scomparsa di Gian Roberto Casaleggio. Infatti il titolo del Fatto Quotidiano è I 5 Stelle senza papà, mentre La Stampa titola Patto sull'eredità di Casaleggio. Il Giornale invece un po' più graffiante, in tilt, gli orfani di Casaleggio. Questi titoli di prima pagina. Libero invece, ancora sul giallo, pensioni di reversibilità, nonostante ieri anche a questi microfoni Yoram Gutgeld abbia detto non si toccano, però il titolo di prima pagina di Libero è questo: pensioni di reversibilità, ecco quelle che rischiano. E poi in evidenza anche morto Casaleggio, il grillo silente. Come vedete le due notizie più importanti sono quelle. Io parto però da leggere che cosa? Alcune notizie che mi hanno colpito dagli esteri, due sostanzialmente. La prima, c'è Renzi in Iran. E ovviamente Renzi in Iran, al di là dell'importanza diplomatica dell'incontro, ricordate l'ultima volta che venne il presidente Rouhani in Italia, ci fu anche tutta la polemica delle statue coperte, eccetera. Gli articoli più interessanti sono quelli che analizzano i risvolti economici di questo avvicinamento tra Italia e Iran. Eugenio Occorsio, per esempio, racconta tutta pagina 15 di Repubblica. Da Roma le linee di credito per sbloccare i contratti, ma l'obiettivo è l'oro nero. È interessante quello che scrive Occorsio, perché l'Iran rientri a pieno titolo nella comunità finanziaria internazionale e possa dunque impostare la sua rinascita, c'è bisogno di altri due passaggi cruciali. Deve riprendere un massiccio export petrolifero, l'unico in grado di garantire adeguati flussi di cassa, e deve recuperare a pieno funzionalità, rapidità e soprattutto affidabilità come sistema bancario. Di qui l'importanza di operazioni come la maxi linea di credito garantita dalla Cassa Depositi e Prestiti e tutta la paziente tessitura che sta compiendo la SACE, che del gruppo Cassa Depositi e Prestiti è la branch specializzata nelle garanzie e nell'assicurazione di crediti alle esportazioni. Si tratta dunque di aiutare Teheran a liberarsi del fardello di arretrati, rate non pagate, controversie giudiziarie che derivano da tanti anni di isolamento. Dopodiché l'Iran sarà in grado di onorare ampiamente tutti i debiti passati, presenti e futuri, e arriva a quel punto il rapporto di ferro con l'Italia che gli ha dato fiducia. Dunque, si capisce attraverso questo articolo di Repubblica che al di là della visita politica c'è tutta questa strategia economica di ridare affidabilità economica all'Iran, e farlo attraverso l'Italia vuol dire poi, diciamolo brutalmente, andare all'incasso, no? Incassare i vantaggi economici. Dall'altra parte c'è Gentiloni che è in Libia. quel governo abbastanza fragile che l'ONU è riuscita a mettere in piedi per la Libia, Gentiloni per la prima volta è andato da al-Sarraj, il premier che è stato incaricato di cercare di riportare un'unità in Libia, e si racconta sul Corriere della Sera con Francesco Battistini qual è il clima in Libia. Interessante l'articolo dell'inviato del Corriere della Sera. Tra l'altro interessante anche il racconto da Zintan di Gheddafi Junior, Saif Gheddafi. Guardate che non è sparito, è uno dei Gheddafi, è in carcere e si racconta della sua nuova vita, ha preso moglie e dipinge. Di fronte allo stupore dell'interlocutore dire come ha preso moglie, sta in carcere, e dice questo libico intervistato, bah, guardate che stare in carcere non vuol dire non avere una vita, visto che Saif Gheddafi è comunque un uomo molto rispettato, lo trattiamo secondo la dichiarazione dei diritti dell'uomo. Insomma, la nuova vita in carcere di Saif Gheddafi, che era stato condannato a morte, ma poi la sua pena è stata in qualche modo commutata e ora sta in carcere. Vabbè, Iran e Libia, i nuovi fronti. Anche perché se arriviamo in Italia, ragazzi, alcune notizie di cronaca, per lo specifico di cronaca nera, mi hanno discretamente colpito e è abbastanza inquietato. Intanto c'è quella foto, quelle foto che girano, pubblicate su Facebook, da Doina Matei, ve la ricordate? Doina Matei, rumena, quella che con un ombrello uccise per una banale lite in metropolitana a Roma, alla stazione Termini, uccise Vanessa Russo con un ombrello che fu piantato nell'occhio di Vanessa Russo e da qui la tragedia. Ebbene, per delle foto, Doina Matei è stata condannata, boh, non lo so, credo a 9 anni. Comunque è già in semi-libertà. No, 16 anni di carcere, ne ha scontati 9, è in semi-libertà e si è fatta riprendere così in bikini, si è fatta riprendere sugli scogli, ha messo tutto su Facebook, insomma, momenti di banale gioia e spensieratezza e scalpore. Tutti i giornali raccontano lo scalpore, guardate l'omicida in semilibertà che si mette le foto su Facebook tutta allegra. La notizia però, mentre tutti gridano allo stupore, allo scalpore, allo sdegno, alla vergogna, la notizia vera ce l'ha il Corriere della Sera, è l'unico giornale che ha questa notizia, e cioè per quelle foto, per colpa di quelle foto su Facebook, la killer dell'ombrello perde la semilibertà. Eccolo qui, Andrea Pasqualetto, pagina 21. Doina dice che non sapeva, che non pensava che la semilibertà se l'è meritata sul campo, tra le sbarre del carcere. Invece la trentenne Doina Matei, che uccise Vanessa Russo, è tornata a pieno tempo nel carcere della Giudecca. In questi giorni stava usufruendo di un permesso premio, ma il giudice, viste le foto, il magistrato di sorveglianza Vincenzo Semeraro non ci ha pensato molto e ha concluso che la semilibertà va sospesa. E ora lei dice attraverso il suo avvocato: sono sconvolta, non sapevo di non poter usare Facebook, mi spiace se ho fatto del male a qualcuno. Sta di fatto che la notizia è non più lo sdegno per quelle foto, ma il fatto che per via di quelle foto ha perso la semilibertà. Mentre io non so se voi ricordate la storia di Giuseppe Gulotta, che anche qui a 24 Mattino è stato intervistato un paio di volte. Giuseppe Gulotta, che fu accusato ingiustamente dell'omicidio dei due carabinieri ad Alcamo, e si tratta di 36 anni fa, una confessione storta con la violenza, la condanna definitiva. Poi alla fine ci fu un carabiniere che qualche anno fa, preso dal rimorso, confessò tutto e Gulotta si è fatto 22 anni di carcere da perfetto innocente. L'hanno preso come capro espiatorio. Ebbene, volete quantificare quanto possano costare 22 anni di carcere come risarcimento? Gulotta ha ottenuto 6 milioni di euro. 6 milioni di euro, 22 anni di cella da innocente, risarcimento record 6 milioni, fu costretto a confessare l'omicidio di due carabinieri. Lo racconta Il Giorno, lo racconta anche Il Giornale, in carcere senza colpa per 22 anni, lo Stato deve risarcirlo, sul Giornale diventano quasi 7 milioni. In realtà sono 6, vediamo quant'è la cifra se si capisce, 6 milioni 530 mila euro. Gli avvocati e lo stesso Gulotta avevano chiesto 56 milioni, 56, glieli hanno dati 6, lui dice mi hanno dato l'elemosina per la vita che mi hanno fatto fare, comunque il dato di fatto è questo. Mentre siamo all'articolo che mi fa pensare della giornata, l'articolo da mani sul volante se siete alla guida, eccolo qui, dopo il padre... Ora anche la madre di Manuel Foffo, il delitto Varani, che parla Repubblica, un'intera pagina di intervista. Il titolo Io credo a mio figlio, è vittima dell'altro killer di Prato, lui non è un assassino. Guardate, non ve la leggo neanche l'intervista, come aveva detto al padre, inascoltato, silenzio. Meglio il silenzio. Ora anche la madre parla, Daniela Pallotto, anche lei, difendo mio figlio. Shhh, meglio un dignitoso silenzio. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, il Vinitaly dell'informazione, e vai di prosecco. E va bene. E allora, cari ascoltatori, una delle notizie ovviamente più importanti, forse la più importante, anzi secondo me la più importante della giornata, è certamente la scomparsa di Gianroberto Casaleggio, anche perché avrà delle ripercussioni sul Movimento 5 Stelle. E vi risparmio la cronaca la potete immaginare, tutti che cercano di strappare una qualche dichiarazione ufficiale a Beppe Grillo, a qualcuno del Movimento 5 Stelle. La cosa che mi ha colpito di più della scomparsa di Gianroberto Casaleggio è che negli ultimi giorni era ricoverato all'Istituto Auxologico di Milano con un nome falso. Sapete qual era il nome? Gianni Isolato. Isolato, no? Molti leggono anche una scelta proprio coerente con la vita di Gianroberto Casaleggio, che veniva descritto come un guru proprio anche per il suo modo scientifico di evitare l'esposizione mediatica, di rispondere a monosillabi, di parlare pochissimo, di non voler esporsi in primo piano, anche se sicuramente era colui che insieme a Beppe Grillo non solo ha fondato ma dirigeva dall'alto il Movimento 5 Stelle. Eppure Gianni Isolato fino all'ultimo. Comunque vi risparmio la cronaca, mentre mi incuriosiscono alcune dichiarazioni, se volete, alcune interviste come quella a Dario Fo, intervistato da Repubblica, da Anna Bandettini. Dice Dario Fo, intervistato a Pagina 6, una volta avevo provocatoriamente chiesto a Casaleggio come pensi di preparare i giovani alla politica senza un luogo dove insegnare a comunicare. E lui, la scuola c'è, la più efficiente, ed è quella della realtà, dove non devi stare alla finestra a guardare, ma devi buttarti dentro e lottare, sapendo che gli errori li paghi di persona. E secondo Dario Fo, Casaleggio ci è riuscito, ha realizzato un'impresa quasi impossibile, ha fatto scuola, una scuola di preparazione politica che ha sfornato e sta sfornando giovani come una volta faceva il PC quando aveva le frattocchie. E per questo, guardando al futuro, Fo dice «Sono fiducioso, vedo all'opera la credibilità dei giovani, la grande impresa di Casaleggio è stata davvero la scuola verso i giovani, l'aver insegnato loro a partecipare». Ed è straordinario perché in poco tempo abbiamo visto spuntare ragazzi che dimostrano già abilità e conoscenze fuori dal politichese. Questo dunque è il ricordo e anche la speranza per il futuro di Dario Fo, che certamente è sempre stato abbastanza vicino al Movimento 5 Stelle. Sul cosa succederà ora, al di là del fatto che l'azienda verrà ereditata dal figlio Davide, dal figlio di Casaleggio, su cosa succederà ora politicamente vi segnalo Emanuele Buzzi e Marco Imarisio, che raccontano a Pagina 5 del Corriere della Sera come presto il Movimento 5 Stelle eleggerà il candidato premier. Secondo il Corriere della Sera succederà entro giugno. Entro giugno il pragmatismo porterà alla prima e più importante scelta, cioè la ricerca di un nuovo leader dotato di quei poteri riservati finora ai due cofondatori, cioè Casaleggio e Grillo. A farla breve, il candidato premier delle prossime elezioni politiche giudicate imminenti. E la scelta avverrà entro il prossimo giugno, naturalmente online, e su questo Casaleggio non ha mai voluto sentire discussioni nonostante i recenti pasticci. Piaccia o non piaccia, all'interno del movimento a molti non piace, ma ogni indizio porta alla incoronazione di Luigi Di Maio, non a caso etichettato da Grillo come un Casaleggio senza capelli, più di una battuta. Dunque, per il Corriere della Sera si sceglierà il leader in qualche modo entro giugno, mentre c'è questa battuta che Tommaso Ciriaco ha strappato, o qualcuno per lui, insomma, nel viaggio Napoli Milano che ieri Beppe Grillo ha fatto alle 15:30, è salito sul Frecciarossa per andare a Milano annullando la tournée. Ebbene, di questo viaggio rimangono alcune parole, quella su tutti, quella che concede a Repubblica il titolo, lo sfogo triste di Grillo: ora vinciamo le politiche o è meglio lasciare tutto, è il titolo di pagina 7 di Repubblica. Poi parla con le persone, prometto che non molliamo, dice a una signora, a un professore di Potenza, con lui scambia tante parole, Beppe Grillo. E d'altronde c'è bisogno di riempire il viaggio, io e Gianroberto non bastiamo, per questo chiediamo ai nostri ragazzi di lottare nelle commissioni parlamentari, così Grillo. E poi questa frase, almeno dice Repubblica, strappata: ora vinciamo le politiche o è meglio lasciare tutto. Sta di fatto che ci sono tanti profili di chi era Gianroberto Casaleggio e di quello che potrebbe succedere ora al movimento. L'altra notizia della giornata sicuramente è il fatto che è stata approvata la riforma costituzionale in via definitiva anche alla Camera. Ora rimane solo il referendum confermativo, quello per cui Renzi ci mette la faccia e lega, al quale lega il proprio destino politico. Riforme al traguardo, ora il referendum, è una giornata storica, saremo i più stabili d'Europa, così giura Renzi. L'opposizione è stata fuori dall'aula per protesta proprio nel giorno dell'approvazione definitiva alla Camera. Ora la riforma Boschi è legge con 361 sì. La parola però al referendum, ci sono tanti articoli anche di quello che è l'ultimo giorno, se volete, a Palazzo Madama, un cimitero, siamo zombie. Questo Goffredo De Marchis racconta, pagina 4 di Repubblica, è il clima che si respira da quelle parti. Ma io voglio saltare sul Sole 24 Ore, perché il Sole 24 Ore, di cui tra poco vedremo altri particolari, ha un'intervista interessante al ministro dell'economia Padoan, intervistato da Alessandro Graziani e Giorgio Santilli, parla ovviamente di tanti temi, a cominciare dalle banche, dal fondo Atlante, questo strumento privato per il quale Padoan dice il governo ha fatto da facilitatore. Assicura Padoan, di fronte alla domanda del Sole 24 Ore, il rischio di bocciatura da parte della Commissione Europea, della Vigilanza Europea, della BCE, dice Padoan: non vedo nessun rischio. Da un punto di vista della disciplina della concorrenza non può essere ravvisato alcun ruolo dello Stato, visto che è un'operazione interamente privata. E poi ancora più avanti Padoan parla della crescita dell'Italia: nel 2016 sarà del 50% più elevata rispetto a quella registrata nel 2015, perché passerà da 0,8 a 1,2%. È meno di quello che vorremmo, ma il tasso di crescita risente del deterioramento del quadro economico negli Stati Uniti e in Europa. Dice ancora Padoan sulla proposta di estensione degli 80 euro alle pensioni basse: ci sono varie ipotesi sul tappeto, ma è presto per pronunciarsi. Quindi una sorta anche di doccia fredda rispetto a quello che aveva buttato là Matteo Renzi. Assicura che la pressione fiscale resta uno dei pilastri della politica del governo. Come dico spesso, però, per essere credibile deve essere finanziata con tagli alla spesa. Per questo la spending review continua, e risponde anche a chi accusa che si sia in qualche modo fermato, non ci sia mai stata, dice Padoan, non è vero, quest'anno è stata la spending review di 25 miliardi e poi proseguirà. E ancora, sulla flessibilità delle pensioni in uscita, è prematuro parlarne, chiedono Graziani e Santilli. Il nostro sistema pensionistico, risponde il ministro dell'economia, è tra i più solidi d'Europa e questa solidità ha un valore che va protetto perché contribuisce alla sostenibilità del debito pubblico. E infine anche l'argomento dei Panama Papers, insomma tutti argomenti sviscerati da Padoan in questa lunga intervista che trovate a pagina 3 del Sole 24 Ore. Non trovate solo questo, caro mio brocco, brocco, adesso do del brocco a tutti per evitare che diano dei brocchi a me, caro Mauro Meazza, brocco mio, broccolino buongiorno, mio. Buongiorno Alessandro, buongiorno, poi veniamo anche a questo punto, questo avvicendamento di Fanchini, finiscila. Ti segnalo, no, mi stavo compiacendo di questa lettura tua attenta dell'intervista. Guarda che Brocchi è oggi cresciuto nella Prosesto, quindi... No, ma non a Brocchi, non intervista a Brocchi, sto parlando dell'intervista di ministro Padoan, anche perché nelle ultime righe lui lascia aperta uno spiraglio sul... la riapertura possibile, il riutilizzo della voluntary di Scragior. È vero. Stiamo facendo un tagliando ai meccanismi della voluntary. Se una macchina funziona, si può certamente usare ancora. E questo, come dire, lascia questo spiraglio. Oh, ti voglio dire, parla molto del rapporto tra Roma e Bruxelles. Bruxelles, tra l'altro, se vai a pagina 2, si racconta di questo decreto che si sta preparando sui crediti, sulle sofferenze bancarie. C'è Bruxelles un po' cauta, ecco, dice Beda Romano, cauta su questo intervento, perché come sai gli interventi di tipo pubblico su questioni oramai bancarie sono sempre vigilati dalla direttiva che ci ha portato il bail-in. Oh, di Atlante, del DL Bank, diciamo poi nelle pagine successive, io ti voglio segnalare tra le tante cose di oggi numero particolarmente ricco, il rating, cioè la spiegazione passo a passo di che cosa c'è nella riforma Boschi, una riforma costituzionale, quindi con la nuova composizione del Senato, i nuovi quorum del referendum, tutto spiegato con delle schede, agili schede, si diceva una volta, che riportiamo a la riforma Boschi. E la riforma Brocchi? La riforma Brocchi la vediamo, ma io mi chiedevo, hanno fatto dei voucher adesso, usano i voucher per pagare gli allenatori, perché... mi sembra che abbia un contratto molto breve, no? Attento all'ironia, che è cresciuto nella Prosesto. Va bene, sarà cresciuto nella Prosesto, ma infatti sono dispiaciuto per voi se lo pagano con i voucher partita a partita. Va bene, comunque, per carità, capisco che in questi tempi bisogna fare un po' di necessità virtù, allora ti segnalo, tra le altre cose, oggi parliamo dell'outlook del Fondo Monetario Internazionale, che come sai ha ridotto ulteriormente le stime di crescita non solo per l'Italia, ma ti segnalo anche che a Bruxelles è in preparazione una proposta, una direttiva per imporre più obblighi fiscali di trasparenza, soprattutto alle multinazionali. Leggi la pagina 8 di oggi sul Sole 24 Ore e trovi tutto questo. Oh, e poi una notizia molto importante, dal 28 aprile si comincia il concorsone per la scuola. Ah, è vero. Sono state diffuse le date, si partirà il 28 aprile, tutti i dettagli nelle pagine di Impresa e Territori. E poi ancora, è arrivato Gerico, no, non è arrivato Marrotino, è arrivato Gerico. Sai cos'è Gerico? Sì, no, sì, va bene. È un software che si chiama così perché sono iniziali di gestione ricavi costi, serve per tutti coloro che sono soggetti agli studi di settore, ne parliamo nelle pagine di Normi e Tributi. C'è la bozza dell'OIC, dell'Organismo Italiano di Contabilità, sul trattamento dei derivati in bilancio. Io so che tu non stai capendo, ma io ti assicuro che si tratta di una circostanza particolarmente di rilievo, infatti ne parliamo su Norme e Tributi. Molto altro ti vorrei dire, ma il tempo stringe, non vorrei essere cacciato come ad altri è successo, ad esempio. E quindi ti segnalo soltanto che oggi con il Sole 24 Ore, come ti avevo già preannunciato ieri, 16 pagine per spiegare le nuove norme del codice della strada, e te lo dico perché così posso salutarti degnamente, caro Alessandro, caro Brocchi, scusa, caro Alessandro, traffico! Alessandro Milan, la trivella dell'informazione. Va bene, non voglio approfondire, caro ascoltatore. Grazie, tutte le sigle le dovete mandare via WhatsApp al 349-238-6666. Ringrazio e tranquillizzo anche il nostro ascoltatore che voleva la sigla in catanzarese. Ti arriverà oggi stesso. Promesso, promessa di 24 mattino, ogni promessa viene mantenuta. E allora, intanto, per quel che riguarda l'inchiesta di Potenza, Repubblica fa sapere con Leo Amato, questa è una notizia nuova, interessante, che è indagato anche il sottosegretario alla salute Vito Del Filippo, risulta indagato a Potenza. L'accusa è scambio di favori con l'ex sindaca di Corleto Perticara, Rosaria Vicino, del Partito Democratico, anche l'ex governatore De Filippo. Attualmente sottosegretario è del Partito Democratico. L'accusa dunque è induzione indebita. L'ex governatore lucano risulta iscritto per questa ipotesi di reato assieme alla segretaria Maria Chiara Montemurro, consigliere comunale del PD di Gallicchio in provincia di Potenza, per un presunto scambio di favori con l'ex sindaco di Corleto Perticara. E questo per quel che riguarda il sottosegretario, mentre l'ammiraglio De Giorgi, il capo di Stato Maggiore della Marina italiana, accusa e controreplica al dossier anonimo che è stato mandato alla procura, è finito anche sui giornali, in cui si parlava di spese pazze, in cui si parlava di festini, dicendo è tutto falso, annunciando querele per chi ha divulgato il contenuto delle carte e commentando la cosa mi amareggia per il mio ben noto rispetto verso gli organi di stampa e verso la libertà di informazione. Comunque il dossier su De Giorgi, racconta i giornali, racconta Repubblica, è stato acquisito dalla procura e ora il fascicolo potrebbe essere spedito a Roma. Comunque continuano i dettagli, ci sono sui giornali. Per quel che riguarda la cronaca, si discute molto per il muro del Brennero. L'Italia è all'attacco al muro. In realtà sono il ripristino dei controlli e il valico di frontiera. Diciamo, definirlo muro forse è un po' esagerato. Comunque Gentiloni, ministro degli esteri, e Alfano, ministro dell'interno, dicono all'Austria è una misura spropositata che viola i trattati di Schengen, come titola Avvenire a pagina 5. Insomma, la barriera è la decisione da parte dell'Austria. Venendo alle amministrative, un po' lentamente, dopo uno sprint iniziale, ma ci sono ancora alcune notizie, si guarda le grandi città, per esempio a Roma, che succede nel centrodestra? Questo è un dibattito che c'è da molto tempo, ma oggi Paola Di Caro si concentra su due personaggi, Bertolaso e Marchini, entrambi candidati al momento. Rimarranno entrambi candidati? Berlusconi aspetta i sondaggi, così titola pagina 10 del Corriere della Sera. Ci sono contatti tra l'ex premier, quindi Berlusconi, e anche Giorgia Meloni, che avevano litigato molto dopo la scelta di Giorgia Meloni di scendere in campo e candidarsi. I due però restano distanti. Le manovre Bertolaso-Marchini però sono analizzate dal Corriere della Sera. A proposito di Roma, ma non è uno spettacolo la campagna elettorale senza che paghiate il biglietto? Sentite qui per esempio uno dei possibili candidati, Antonio Razzi. Cosa ha dichiarato? Ho trovato la soluzione per liberare Roma dai ratti che l'hanno invasa. Ed è la soluzione che tutti noi dicevamo ridendo, sorridendo, buttiamola lì, anch'io l'ho detto, assumete gatti. E lui, Razzi, così, ho già preso contatti per far arrivare 500.000 gatti asiatici. Ve lo dico a voi due, d'amico, fatevi i cazzi vostri. Ecco, giusto. Tra l'altro, perché asiatici? Sono più cattivi coi topi? Non lo so, però asiatici, i gatti asiatici. Vabbè, concludiamo così. Intanto, se volete sposarvi alla Reggia di Caserta, oppure nei musei, oppure al Maschio Angioino, oppure al Circo Massimo, sappiate che tutto questo è possibile. E Cristina Nadotti racconta, pagina 25 di Repubblica, il tariffario. Volete sposarvi al Maschio Angioino a Napoli? Si va dai 366 ai 600 euro, a seconda dei giorni e dell'utilizzo, ovviamente. Ma volete sposarvi al Circo Massimo, fare le cose in grande a Roma? 15.000 euro. 15.000 euro! oppure al Museo d'Arte della città di Ravenna, 732 euro, al Museo Bardini di Firenze per 250 euro se siete residenti, viene via a poco. A Palermo al Museo Civico di Castelbuono 350 euro, insomma viene via anche questo a poco. Dovete sposarvi, prendete il tariffario su Repubblica. Ma Vittorio Sabadin torna per la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, perché a pagina 25 per un'intera pagina si racconta dei 90 anni della regina Elisabetta, che li compirà il prossimo 21 aprile. Ma il 21 aprile, scrive la stampa, la regina passerà un giorno quasi come gli altri. Ma chi se ne frega!